22:49, incredibilmente, forse ce l'abbiamo fatta. E quindi dopo il buon elettrodo con le sue prove tecniche di trasmissione andiamo a chiudere il mercoledì con ulteriori disturbi sonori. E quindi bentrovati e bentrovati ad un nuovo appuntamento di 24 o'clock, anatemi e rifiuti urbani. Siete sintonizzati e sintonizzate sulle 87.9 in FM della banda romana e laziale di Radio Onda Rossa. E questa è l'ora strappata, scippata ai ritmi di produzione. Una sorta di deformazione spazio-temporale. Questa sera deformazione ulteriore, perché c'è una voce non solita, almeno negli ultimi tempi. Salutiamo il buon Fefo a casa. Ma cominciamo subito qua con una proposta che ci arriva dedicata proprio per elettrodo. Una composizione originale per elettrodo. Che ascoltatori affezionati. Allora, questa viene da Magnetizers. Un giovane ragazzo di Spinaceto. E questa è la sua lode oscillatoria. Piacere, un grande piacere ospite di avere ospite in disco. I grandi film che fanno ridere, che fanno tantissimi incassi. A tra poco, a tra poco. I giovani studino le scienze, si applica il mio sulle scienze. Sono migliaia e migliaia di cani che sono. Magnetizers ad elettro. Questa invece che già sentiamo sotto è una segnalazione che ci arriva dal buon Spider di Blues Night, trasmissione di blues e dintorni tutti i venerdì sera dalle ore 22. E lui è Maximilian D. dal suo ultimo lavoro, Caronte Blues Sessions. E questo è Trails, no, Trail of Tears. Che risentiamo da capo. questa era Trail of Tears di Maximilian D. In punto, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è 25 O'Clock. E quindi Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Ricordiamo un po' di contatti della radio, quindi potete scrivere in redazione a ondarossa@ondarossa.info, radio che non campa d'aria, e quindi potete contribuire attraverso il conto corrente bancario intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volci 56 00185 Roma San Lollo. E attraverso il sito della radio è raggiungibile al www.ondarossa.info. Potete sostenere questa radio anche attraverso la campagna che è attiva di crowdfunding, quindi andando a cliccare sul banner in alto sarete indirizzati alla pagina di Produzione dal Basso, dove poter sostenere questa radio. Dagli, dagli. Intanto, giustamente, ho rovinato la bella dedica di Magnetizers a Eltrodo, sbagliando il titolo della sua composizione. Non si fa, non si fa. Vabbè, lo diciamo per dovere di cronaca. Era l'ode oscillatoria al Cavaliere dell'Apocalisse Luca Giurato. Come poter ignorare un titolo così? Vabbè, noi continuiamo, Dai, per farci perdonare, questa la dedichiamo a Magnetizer. Da New York, loro sono i Sabotage e questa è Jesus Saves. Hey man, you got water? You ain't got nothing? That's okay, man, that's okay. God bless you anyway, man. Hey, I hope I didn't scare you or nothing like that. I ain't no bum or nothing. I used to live uptown once before too, you know. No, I did, really, I did. Used to come down here and look at all the characters. I never thought I'd be one of them, though. Characters, man. A lot of characters. Hey, you got a minute? You got a minute? Let me tell you a story about this friend of mine. D.T. Jesus. Yeah. Used to stand for Downtown Jesus. We used to sell drugs and stuff down here, and they used to come. Well, we used to call him Detox. Yeah. He was one character that made it out of here. Let me tell you about him. Hung out on the boulevard. Jesus saves. Jesus saves. Yes, it does. Jesus saves. E questa che abbiamo ascoltato dopo i Savatage. Savatage. Sono gli Alcest. Gruppo francese uscito con l'ultimo disco. Spiritual Instinct. Abbiamo ascoltato Sapphire. Mentre sotto va invece l'ultimo lavoro di Janko Nilovic and the Soul Surfers, con il suo ultimo lavoro Maze of Sounds. Ce la riascoltiamo da capo, eh? Dottori Filopanti e Di Nardo. Cara signora. Il dottor Di Nardo, il dottor Filopanti, certo. Due vecchi amici di mio Filopanti, marito. Gentili. Il dottor Terzilli che sostituisce il dottor Bisei. Meno male, era ora, eh? No, no, grazie. Io non so in che rapporti tu sia con Piselli, ma permettimi di dirti con tutta franchezza che è un bel lavativo. Perché? Ci avesse mai mandato un cliente. Il dottor Filopanti è radiologo, il dottor Di Nardo è otorino laringoiatra. Bene, bene. 8 anni di specializzazione, eh? Attrezzatura di primissimo ordine. Impianti completi anche per la terapia fisica, forni, marconi, radar. Pubblicati e illustrati nella federazione medica. Guarda. Ah, bene. Io ho l'ambulatorio nello stesso palazzo dove c'è la Filopanti. E opero alla clinica Villa Fiorita. una delle meglio attrezzate di Roma. Sì, sì. Devi venirci a trovare. Volentieri. Vedrai che lusso, che pulizia. Del resto lui ci conosce. Sono anni che lavoriamo insieme. Sì, ma non capisco io in... A meno che tu non abbia già preso degli accordi con altri specialisti. Propri accordi no, ma Bietti e Forcella mi avevano fatto delle proposte. Per carità, non ti mettere con quelli. Non sanno far niente. No. E sono pure mezzi gente. Ah, guarda, onestamente, noi ti proponiamo le stesse condizioni che avevamo con voi. E cioè? Ti diamo il 25% per ogni cliente che ci procuri tu. 30, dottore. Signora Amelia, le assicuro che il 25 è il massimo cui possiamo arrivare. Lei non ha idea delle spese cui dobbiamo andare incontro noi specialisti. Bisogna rinnovare continuamente le attrezzature. Possiamo darti il 30% sulle prestazioni extramutua. Già, ma io non ho paganti. Anche fra i pazienti del dottor Bui, grazie. La maggior parte sono mutuati. Che vuol dire? Ai mutuati tu gli fai capire che se vogliono delle radiografie ben fatte, delle analisi serie, degli interventi coscienziosi, bisogna che paghino di tasca propria, rivolgendosi a noi specialisti fuori dalla mutua. Vedrai che è facile convincerli. Sugli elettrocardiogrammi posso farti avere anche il 50%. Puoi farmene fare molte. Basta che pronunci anche distrattamente la parola infarto. Sai dove è facile far breccia? È quando si tratta di bambini. Tu dici ai genitori, a questo bambino bisogna togliergli le tonsille, togliere le adenoidi, che portano il reumatismo, la nefrite, ritardano lo sviluppo, eccetera. Gli argomenti li conosci. Però gli fai capire che, certo, se invece di un medico della mutua l'intervento lo fa un bravo specialista in una clinica privata, è un'altra cosa. Mio marito in questi casi diceva una cosa molto convincente. Diceva, si tratta di operazioni di poco conto, ma si fanno una volta sola nella vita e quando si tratta di bambini qualsiasi sacrificio è sacrosanto. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Brava. questi erano da Los Angeles gli Here Lies Man con la loro L, un afrobeat. Sicuramente più rock and roll. Poi almeno a loro piace definire il loro sound come se i Black Sabbath cominciassero a suonare afrobeat. Ci spostiamo invece in Marocco, da un lavoro del 1974. Loro sono i Les Frères Maigris. Sempre su 25 o'clock, eh? I'm not.

fatto una cattivazione. Una cattivazione, addirittura, stai esagerando, eh? No, dottore, non esagero. No? E sentiamo allora, qual è questa cattivazione? Su. Lei ci crede, dottore. Lei ci crede che so suonare. Oh, ma non ci pensare nemmeno, io sono un medico e sono qui per fare tutto quello che serve. In primo luogo voglio visitarti, ebbene, avanti. Spogliati e sdraiati su questa lettica e dimmi che cosa ti senti, eh? Come che mi sento? Sono intossicato, intossicazione da lenina, facevi in bianchino, dottor, so 15 anni che mi hanno giù il veleno. Sì? E il padrone mio mi obbligava a lavorare sempre con le finestre chiuse. E tu non la potevi aprire? E non lo facevo, no. Lui me li richiudeva. Ma tu che ti senti? Che disturbi hai? Aridaglie, sono intossicato, non posso respirare, me strozzo. Sì? A notte devo dormire in piedi, se mi metto giù, fischio. Così? Ma che c'entra il fischio con la cattivazione che ti ha fatto il medico, eh? Mentre mi visitava sto boy ha fatto un'occhietta all'infermiera che è andata a telefonare. E lui continuava a far buffo. Che te fa male qui? Respira forte, più forte. A un certo momento si è aperta la porta. Sono tornati gli infermieri, mi hanno acchiappato e mi hanno portato al manicomio. Ciao. Oh. A lot of times I have scary dreams, and sometimes I have dreams about wrestlers. I sleep with a teddy bear or a rabbit. What? Hey, I mean, like, dreams are very important. My own little special Frankie. I'm the only one who has it. But, hey, I mean, like, dreams are very important. My own little special Frankie. I'm the only one who has this. It's special because I even had it when I was big. It was ripped. Right here so big. And here, and here. But I don't take it, like, everywhere. Not at store. I take it to the bathroom, but not in the bathtub. He'll get wet so much, and then he'll wreck. Frankie is his name. I actually, turn on all of the lights because I'm scared of the dark. Well, you know what? You should buy a night light. I got a little light. But not in the bathtub, he'll get wet so much, and then he'll wreck. Frankie is his name. I actually, turn on all of the lights because I'm scared of the dark. Well, you know what? You should buy a night light. I got a little light to check. Thank you. Ed abbiamo appena ascoltato i Dead Can Dance. Con la loro cantara. Dall'album del 1987. Within the Realm of a Dying Sun. Ci spostiamo in Inghilterra. Loro sono in Nebula Mori. Questo è un lavoro totalmente autoprodotto. E quindi ce l'ascoltiamo dall'ultimo lavoro, A Ghost Among the Stars. Questo è Celestial Remains. abbiamo varcato la mezzanotte. Quando il mercoledì sera si entra invece nella 25esima ora. Ogni tanto scompare la mia voce, ma la mia natura evidentemente. Quelli che stiamo ascoltando sono i Midnight Odyssey. Dal loro lavoro del 2018, Ruins of a Celestial Fire. E questo è Ruins of a Crystal Sky. Just so, like, you'll never forget it. wonderful things or horrible things. While we're asleep, we can do that while we're awake. But the question is, can we do that while we're sleeping? Yes, if we dream. Dreams kind of help you. Because they give you, like, clues of the future, but very hard clues. God makes you dreams so you can sleep very good and have a comfortable time and a nice time in your head, so you don't have to wake up in the morning and go dream. Have you ever had a dream that you want him to do you so much you could do anything? No dream. Have you ever had a dream that you want him to do you so much you could do anything? Like, dreams are very important. My own little special friend. I'm the only one who has this. It's special because I even had it. It was ripped. He races so big. And here, and here. But I don't take it like everything. Not stupid. Bring him to the bathroom, but not in the big tub because he's still good. Wet so much, and then he'll wet. Frankie is his name. I actually turn on all of the lights because I'm scared of the dark. Well, you know what? You should buy a night light. I got a little light to check. What's anything in the bathroom even? No, but I'm a little bit afraid. I check sometimes in the closet and under my bed. Sometimes I do that too because I want to make sure that the monsters went away already. They're just made up. People just do that to make television shows like Godzilla. That's not really real. There's no such thing as a huge lizard that can step on every building. If you have, like, a toy that's really scary and, like, always scares you, and, like, it comes to life in your dreams, you have to stand up to it. Like, that toy is not even real. Come on, you gotta tell yourself. That toy isn't real. That toy isn't real. I take a car to my grandma's. It's so far in real life. It's so far away. It's all up in Scarsdale. In dreams, you just get there in a second. It's like a movie, and like, but you can't stop it unless you wake up. I think that it's a feeling. They're invisible. They can go in so fast. Thank you. E visto che siamo entrati in atmosfera cinematografica, dalla versione synth di Vertigo di Hitchcock, questo è un film del 1970, 5 bambole per la luna d'agosto, diretto da Mario Bava. Colonna sonora di Piero Umiliani. Questa ce la riascoltiamo da capo. Rimaniamo in tema cinematografico. Sempre da un film del 1977, La via della droga. Loro sono i Goblin. Thank you. 28 minuti passati la mezzanotte. Ed anche per questo mercoledì le deformazioni spazio-temporali di 25 O'Clock. Sono tornate, ma terminano qui. Quindi l'appuntamento al prossimo mercoledì, sempre tra le 22.30 e 23. E così terminano le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa. Dirette che torneranno domani mattina dalle ore 8 per la rassegna stampa. Non mi rimane che salutare chi è rimasto all'ascolto. Come sempre un forte abbraccio. Un forte abbraccio a chiunque si trovi, privata o privato, della propria libertà. Chi si trova reclusa, recluso. In quel luogo chiamato carcere. Let it begin, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win. Dreams, I'll share our dreams under a communist moon.